la pa la la. I kasila yo ugu se chinga si cha chale lu. Hey, wayenasi usatani wayasi chela ugu tungobile kanti haibo agabu zongelane ingobile yoni ingobile yoni ingobile yoni ingobile. Mm-hmm.